Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da giugno a dicembre del 1833. Diritti umani, lezione inglese, il Parlamento abolisce la schiavitù e limita il lavoro minorile. Caccia gli affiliati alla giovine Italia, Mazzini si rifugia in Svizzera. Spagna, muore Ferdinando VII, gli succede la figlia di 2 anni, il regno in mano a Maria Cristina delle 2 Sicilie. Fu un mistero la sua apparizione, lo è la sua morte, assassinato in Germania Kaspar Hauser. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Nel giro di un mese, quello di agosto, l'Inghilterra ha dunque lanciato la sua sfida al mondo sui diritti umani. Già qualche anno fa il Parlamento inglese aveva abolito il commercio degli schiavi, anzi aveva istituito una forza navale addetta a bloccare i mercanti di esseri umani. Poi 2 anni fa in Giamaica era esplosa una rivolta di schiavi repressa nel sangue anche dalle guarnigioni britanniche nell'isola. E Londra aveva ordinato un'inchiesta sui fatti, le cui conclusioni hanno contribuito in maniera determinante alla decisione del 1 di agosto. Posto che la schiavitù è già da molto tempo proibita nel Regno Unito, il divieto viene esteso anche a tutte le colonie, con l'eccezione di Ceylon, Sant'Elena e dei territori amministrati dalla Compagnia delle Indie Orientali. Ci sono dei paletti dunque, e non solo territoriali. Tutti gli schiavi sotto i 6 anni sono liberati, ma per quelli che ne hanno di più è fatto obbligo di continuare a svolgere lo stesso lavoro, ma col ruolo di apprendisti e per un periodo di tempo limitato. C'è poi una questione economica. Si è deciso di risarcire gli ex proprietari con l'astronomica cifra di 20 milioni di sterline, circa il 40% del budget annuale dello Stato. Un altro atto peserà sull'economia britannica è la decisione di limitare il lavoro minorile con i cosiddetti Factory Acts, varati a fine agosto. Non potranno andare in fabbrica i bambini sotto i 9 anni, quelli tra i 9 e i 12 potranno farlo per non più di 48 ore a settimana. Tutti i bambini sotto i 13 anni debbono frequentare la scuola almeno 2 ore al giorno. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Torniamo in Italia. Dopo la scoperta della rete cospirativa della giovine Italia avvenuta da parte delle forze dell'ordine sabaude, i controlli si stanno estendendo a tutta la penisola. Le polizie stanno collaborando e si stanno basando su una serie di lettere compromettenti trovate proprio a Genova. Il capo riconosciuto dell'organizzazione, Giuseppe Mazzini, è fuggito e sul suo capo pende una condanna a morte in contumacia. Si troverebbe a Ginevra. È morto il re di Spagna Ferdinando VII dopo 20 anni alla guida della sua nazione. Gli succede, secondo quel che prevede il diritto spagnolo, cambiato dallo stesso Ferdinando, la figlia Isabella, avuta nel suo quarto matrimonio, solo che Isabella, appena 2 anni, reggente in sua vece, sarà la madre Maria Cristina, principessa delle 2 Sicilie. È stato un mistero la sua apparizione a Norimberga 5 anni fa. Kaspar Hauser era un giovane di 16 anni che sapeva dire poche parole e sosteneva di essere stato rinchiuso in una specie di cella per molti anni. È un mistero la sua morte. Il 14 dicembre è stato pugnalato nel parco di Ansbach ed è morto di lì a 3 giorni. La Germania è scossa per la fine di quello che è stato soprannominato il fanciullo d'Europa. Era l'ultima notizia per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate sul nostro sito e scaricate come sempre il foglio quotidiano con immagini e notizie. Lasciateci commenti sul blog, sulla pagina Facebook o con una missiva digitale a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.